Adesso posso attendere serenamente alle consolazioni dell'uomo. I giochi di figura si fanno massimamente perfetti, coordinando simmetrie di due sorrisi presi al volo con lame radenti in superficie invernale, come sembra, leggerissimamente, ma in realtà solo per volontà fatica e duri allentamenti sintonici, percepitando dalle volute, crepitino in alto i cuori. Doppi loop e two loop di travianti butterfly e tripli stacchi di alfredi, per lievi che siano, gli affanni carsici su cui sorvolare allegramente, come faranno, che è cosa di femori saldissimi e pulsar di collageni, elastine, arterie plastiche come elastici slanciati a non mai tremare, tornando in pista con tripli caparbi X di ginocchia olimpioniche a bradere, scivolando senza rattristare mai e poi mai un braccio sulla vita che accompagna volute luz sotto zero e stacco pubblicitario. Oh, gli atleti del ghiaccio onorano di fatto la legge che è della vivialità, virilmente rivali rivoltandosi a un movimento che ci manca, a noi che la legge stessa intitola senza mani, senza piedi, tutto orecchiocchi e doppio twist, triplo slancio, doppio triplo salto, per quale ricaduta solo un appoggio conta. La perfezione dell'appoggio che continua a sorridere puntando bolscevico e circense nonostante l'estrema difficoltà sia spirale e la storia una leggerissima sequela di appesantimenti stanchissimi di esecuzione a chi senza emozione ma ben parati tecnicamente con classe immensa innalza i cuori di vecchi imperi ma carendo oramai in carattere di coreografia. Scandite con mani sicure il miglior ritmo in assoluto e in parallelo, valorosi, animosi, con franchezza, che meraviglia, perciò che scivola Axel all'indietro, sommergendo lo stupore con scrosci d'applausi su sagomate di spirali basse, regola su regola, fatti taglienti millimetrici, che fatica e che sollievo, quel sollevamento, credo che adesso stiano tremando a quell'altezza incredibile di rotazione, in gara ora mano nella mano e sguardo nello sguardo. È un esercizio terrificato, come di Romeo e Giulietta, nella molto loro elegante sequenza. Non esiste più un doppio, ma la ripresa in aria dove ruota lei tutta su quella mano olimpica e limpidi sorrisi, una lunga corsa immobile e genuflessa, saltelli rapidissimi a prova di nervi sciatici che sanno di non poter sbagliare, non adesso, non intorno alla vita bella che corre su per un'intesa angelica e brutale, volitando e ci percipitano con una zampa in alto come di grue ferita. I pattinatori, mentre si scambiano, ho l'impressione, un'acrobatica carezza su capelli viola di ghiaccio. E poi una trottola, due, tre trottole di campioni in vitro. Da quel ginocchio sinistro si diparte in morbidezza uno slancio di gamba che pensa e uno di gamba che persa divarica un'anca affionda ed è lei che versa una furtiva lacrima, smesso l'equilibrio all'unisono nel sollevamento finale, l'oro del coraggio, l'argento della caduta, scorticata tremendamente la superficie, crepino gli artisti avanti dipingendo la combinazione più puntata, pervadano ad ingrossare il podio dei filanti nella diaccia bufera di luci, ritratta dall'occhio che subito, a scommessa, si ritira. Perché non esiste un corpo che possa veramente ravvederne un altro.